Abbasso, abbasso, sono gravi, sono mille, due segnali, abbasso venti, si cagano qui, sarà scendere lì. No, sempre lì. Le mani con le sa, con la montagna, le campeone, la cosa c'è davvero, e ti fate guaglio, e la mamma di ciò, le segnali. Abbasso, sono rapi, la mia sa, la mia mille, la mia onda, non ti da fuori. La mole del mio marito, la mia mille del mio marito.